Il 14 marzo, dopo le piogge incessanti, c'è stato uno smottamento in località spiagge nel comune di Palazzuolo. Questo smottamento ha portato alla luce questa discarica che i giornali hanno definito fantasma, ma non era fantasma perché tutti sapevano che la discarica era lì dagli anni 70, dal 71 precisamente. Infatti c'era stato un grosso scandalo in quegli anni, c'era stata addirittura un'interrogazione parlamentare da parte dell'allora sindaco di Imola Despignani, del Partito Comunista, e ci fu un'interrogazione parlamentare, appunto. Poi ci fu addirittura, i giovani si mossero perché insomma il movimento era forte in quegli anni e occuparono il municipio, ma poi niente, tutto è caduto nel nulla perché effettivamente il comune di Firenze aveva depositato tutti quei rifiuti. Allora non c'era una legge, la legge è uscita nell'82, no, sulle discariche e sulla tutela ambientale, e quindi allora proprio si faceva un buco, si buttava tutto quanto dentro. Rifiuti che vi lascio immaginare, c'era di tutto, no? Dalle plastiche all'Eternit, insomma, e non c'era neanche un isolamento tra il terreno e la discarica come avviene oggi. Tutto quanto per il percolato, capito, andava direttamente poi a inquinare tutte le falde acquifere. Che cosa succede con lo smottamento del 13, del 14 marzo? La frana, cade tutto questo materiale, cade tutto nel torrente Rovigo, che poi va a finire nel Santerno, e poi nel Santerno ovviamente va a finire nel Reno, e tutti i materiali plastici, stiamo parlando di 60.000 tonnellate di rifiuti, sono caduti in questo torrente, che la piena poi ha portato, distruggendo questo paesaggio meraviglioso che erano le cascate di Tiara, il lungo Rovigo, che, in cui ricordo c'era la presenza del gambero di fiume, quindi le acque erano pulitissime, i paesaggi erano mozzafiato, un luogo della memoria storica, perché là operava anche la 36ª Brigata ai tempi della guerra partigiana, e adesso quello che è successo è una vera e propria catastrofe ambientale. Catastrofe su cui avete, voi cittadini, insomma, interessato le autorità, ma come dire, c'è stata una lenta risposta? La risposta tutt'oggi è lentissima e le misure sono completamente inappropriate, ma la cosa più scandalosa e terrificante è che c'è un divieto. La prefettura di Firenze emette già 20 giorni fa un divieto di avvicinarsi a quei luoghi e impedisce ai volontari. Oggi ci sarà tra l'altro un'assemblea pubblica a Firenzuola, e gliene spero che la reazione delle persone sia forte, perché ad oggi è stata incaricata una ditta per pulire, poi è stata mobilitata una colonna della protezione civile, ma c'è bisogno dei volontari, perché c'è talmente tanta immondizia, talmente tanta plastica anche in acqua che si sta poi sbriciolando, perché ricordiamo sono plastiche di 50 anni fa. Noi abbiamo messo in conto il pericolo e organizzati e coordinati saremmo voluti andare. Stiamo parlando, c'erano già 1000 persone, un migliaio di persone. Non è stato possibile ad oggi perché questa assurda ordinanza da parte del prefetto impedisce ai volontari di andare. Cioè i volontari che stanno andando della protezione civile non vanno con le mascherine oppure con le tute per i disastri nucleari, ecco. Vanno, capito, a raccogliere come raccoglierebbero tutti quanti gli altri, insomma, tutti gli altri volontari, con i guanti e con gli stivali. Quindi non si capisce proprio perché non si possa andare, cioè non si capisce. Purtroppo noi lo capiamo bene, quella degli appalti, quella dei ritardi burocratici, questa delle amministrazioni che fanno fatica, capito, ad agire, no? sul momento della tragedia. In queste settimane sono stati esposti raccolte di firme, temete che sia troppo tardi adesso, insomma, che il disastro si sia prodotto e quelle zone abbiano ripercussioni anche in futuro? Era troppo tardi nel primo giorno della frana, ma probabilmente era troppo tardi anche 10 anni fa, quando tutto il percolato stava cadendo e inquinando le falde acquifere. Adesso è un disastro perché è evidente, cadendo, capito, queste plastiche, queste tonnellate e tonnellate di plastiche nel fiume che con la piena poi sono state portate a valle. Adesso si farà un lavoro immane per bonificarlo, ma ripeto, servono centinaia e centinaia di persone sul posto. La scusa, diciamo, che era stata usata era: no, non si può andare perché i luoghi sono impervi. Ma l'Appennino Emiliano ci sono dei sentieri, tra l'altro quel sentiero credo che dal CAI sia segnato da 0 a 5, dove 5 è il massimo della difficoltà, 2 sono impervi. È una sciocchezza, perché se ci andiamo ci portiamo i bambini, ci vanno i turisti ogni fine settimana, a bordo fiume si può andare tranquillamente a raccogliere. Troppo tardi, è difficile da dire questo. Adesso ci sono tonnellate di plastica chissà quale altro, abbiamo trovato flaconi di acido, rozzi, siringhe, rifiuti ospedalieri, cioè è un disastro. Quindi troppo tardi, diciamo che ogni secondo che passa e non si agisce, la situazione sicuramente non va a migliorare, ecco. Visto che appunto dicevi che quella discarica era nota a tutti fin dagli anni 70, doveva essere bonificata prima per impedire poi quello che è accaduto? Ma assolutamente, poi tra l'altro ne sono state trovate altre due nelle vicinanze, proprio diceva a qualche centinaio di metri, quindi questa non è l'unica. Questa è emersa la situazione tragica in cui versava l'Italia, il contesto di quegli anni. L'ambiente allora era considerato nulla, i riflettori devono rimanere accesi su questa situazione fino a quando almeno non possiamo realmente intervenire in maniera seria e decisa, perché ripeto, ci vorranno tempo, non sappiamo quanto, ma sicuramente tantissime mani e tantissima volontà.